suono di una voce, la luce sul tuo viso e quello che ho di te, l'accenno di un sorriso, quello sguardo verso me. Poi momenti di una sera di dolce compagnia, adesso lei non c'è, immagini e poesia, quel qualcosa dentro me. Solo l'ombra di un ricordo, in gola ancora il suo respiro, nell'aria questa melodia che risuona. Sono note di una voce, in mente portate da un sospiro, un ricordo e un po' di nostalgia di una sera. Sentimento in note di poesia di una volta.